durante il mio regno non ti sei mai perso. Tu con me sei diventato tutto. È finita ed io non riesco più a dormire. Mi dispiace ma ti devo maledire. Spero finisca presto l'infinito che ti ho messo addosso. Spero diventi un cesso se puoi avere tutte tranne me. Spero sia veri presto ogni calunnia che ti ho messo addosso. Spero ti esploda il letto quando ti ci spogli senza me. E ora ti maledico, non so quello che dica. Prima buttiamo via il paradiso e adesso lontani noi stiamo da schifo. Siamo killer spietati come due innamorati. Poveri diavoli. Come te, mai più. Come te, mai più. Durante il mio regno eri così brillante. Mi hanno detto che ora sembri un deficiente. Nel mio letto eri grandioso, eri un pazzo. Come vorrei che adesso ti cascasse. Ognuno per la sua strada, noi non siamo immensi più. Vada un po' come vada, nessuno saprà mai come eri tu. E ora ti